sei tu, al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Sogno più ambizioso, ci sei tu. visto chi ha fatto piangere, lacrima infinita. Femmina, si doce come zucchero, manto secata l'anima, non te posso più scordare. Dentro cuore se ne va. E dice parte addio. Allontana da stupore, da satella dell'amore, tiro cuore non tornare, ma non me la sa, non da questo dormiente, torna sul retto, fammi campare, ma non me la sa, non da questo dormiente, torna sul retto, fammi dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando, l'anno, il giorno, l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò, fino a quando, quando, quando, d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Ogni istante attenderò, fino a quando, quando, quando, d'improvviso ti vedrò. Sole, l'aria serena dopo una tempesta e l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa è una giornata sole. Hello. così, anima e cuore. Non ce la siamo più, manco penore. Stu desiderio te mi fa paura. Campa con te, solo con te per non morire. Che c'è di scema fa? piangendo, amore scusami, ma ho capito che lasciandoti io soffrirò. Se mi penserai ricordati che amo te. Ti ricordi quella sera che per gioco ti baciai? Sembrava solo un'avventura, un'avventura arriva al mare. Ti baciavo nel silenzio, non volevo confessare che stavo forse poco a poco innamorandomi di te. Amore scusami se sto piangendo, amore scusami, ma ho capito che lasciandoti io soffrirò. Many times, oh man, the words are spoken. le tue mani fra le mani stringere ancora, il mio mondo, tutto il mondo sei per me, a nessuno voglio bene come a te, ogni giorno, ogni istante dolcemente ti dirò.